Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Non è solo la Francia ad essere stata attaccata nel cuore dei suoi valori, ma l'Europa nel suo insieme. Per questo serve una risposta europea. Così questa mattina il commissario europeo agli affari interni Dimitris Avramopoulos, in attesa del vertice straordinario chiesto da Parigi di venerdì. Poi l'invito agli stati. Member States must make full use of the un appello ad un maggiore scambio di informazioni, a fare più ricorso agli strumenti di Europol per la lotta al terrorismo. Alcuni stati, ha detto, non danno la dovuta importanza allo scambio di informazioni con gli altri paesi. Chi è arrivato a Parigi per gli attacchi ha attraversato molte frontiere interne, nonostante il nome fosse sulla lista. Schengen non è un problema, ha aggiunto, lo sentite, ma la soluzione se ne facciamo l'uso dovuto. Così ha detto il commissario Avramopoulos e poi ha proseguito: vorrei sgombrare il campo però da equivoci. Chi ha perpetrato gli attacchi a Parigi non sono dei profughi, abbiamo il dovere morale di proteggere i rifugiati. Se cominciamo a mettere in discussione questo, cediamo al timore che questi terroristi vogliono infondere. Tra i punti però in discussione su cui Bruxelles vuole accelerare dopo Parigi c'è quello del cosiddetto PNR, il sistema identificativo dei viaggiatori in Europa. Il registro dei passeggeri dei voli aerei, PNR, è ancora oggetto di incontri tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo, anche se oggi lo stesso commissario agli interni, Dimitris Avramopoulos, ha affermato che non c'è tempo da perdere. Abbiamo avuto momenti non poco difficili, ha detto il commissario, ma ora c'è un dialogo in corso ed è di cruciale importanza finire il lavoro prima della fine di quest'anno. La Commissione e il Consiglio lo ritengono fondamentale per la prevenzione e la lotta al terrorismo, ma il dossier è bloccato da oltre 2 anni all'Europarlamento, che ha sempre espresso forti preoccupazioni per la privacy. I principali nodi della trattativa restano l'applicazione del registro per i voli all'interno dell'Unione Europea e la durata della conservazione dei dati. Se ne parlerà comunque anche alla riunione straordinaria del Consiglio interni di venerdì. Tra qualche settimana dovrebbe in ogni caso scattare un maggior controllo su tutti i passeggeri, europei e non, e un più approfondito controllo dei dati relativi a ciascun passeggero, come ad esempio i voli precedenti, per capirne le motivazioni e gli spostamenti. A tutte le compagnie, comprese le low cost, verrà chiesto di alzare la vigilanza, sia sui bagagli che sui documenti esibiti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Attentati di Parigi che cambiano anche i rapporti con i paesi alle frontiere dell'Europa. In una presentazione davanti alla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario all'allargamento, Johannes Hahn, hanno messo l'accento su 5 settori. La creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico, la cooperazione nell'energia, la sicurezza, l'immigrazione legale e illegale e il rapporto con i vicini dei vicini. Hahn ha fatto notare che il vicinato europeo conta attualmente 20 milioni di rifugiati ed è teatro di una decina di conflitti armati. La signora Mogherini, invece, ha sottolineato che la relazione con questi paesi, in tutta una ventina al sud e all'est, deve prevedere un partenariato differenziato a seconda degli stati. La guerra civile in Siria e gli attentati terroristici hanno reso il rapporto con il vicinato un aspetto cruciale della politica comunitaria. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E per il momento ci fermiamo qui, ma come sempre l'Europa vi aspetta ad effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.